Letture di Radio 24. L'Italia è uno dei paesi con il maggior numero di anziani in rapporto alla popolazione. Ma l'aumento della speranza di vita, anziché costituire un indice di successo, rappresenta solo un problema. Come spiega Luigi Campiglio, docente di politica economica presso l'Università Cattolica di Milano, in un articolo pubblicato sulla rivista Formiche. Viviamo tempi di impensabili paradossi che capovolgono il buon senso comune, ancor prima di ipotetiche leggi economiche. Il numero di giovani italiani nel fiore delle loro potenzialità diminuisce e quindi ci si attenderebbe che il loro valore aumenti in termini di opportunità di lavoro e di reddito. Ma così non avviene. Aumenta invece l'emigrazione verso l'estero dei giovani con le professionalità più elevate, mentre allo stesso tempo aumenta l'immigrazione per le occupazioni di più bassa qualificazione e quindi con minore produttività e capacità di reddito. Allo stesso tempo continua la crescita della speranza di vita, cioè uno straordinario successo di civiltà, ma che paradossalmente è diventato un problema, perché la brusca diminuzione della natalità, a partire dagli anni Ottanta, ha stravolto la struttura demografica dell'Italia. La Cina, criticata a livello internazionale per la sua politica del figlio unico, ha in realtà registrato un tasso di natalità molto più elevato dell'Italia, dove il disinteresse della classe politica è stato purtroppo molto più efficace del centralismo democratico del Partito Comunista Cinese. L'Italia è, con la Germania e il Giappone, uno dei grandi paesi in cui è più elevata la quota di popolazione in età avanzata, ma con una cruciale differenza. In Germania e Giappone il maggior livello di produttività consente maggiori livelli retributivi, pensionistici e di spesa sanitaria. I giovani italiani con elevata qualificazione che stanno emigrando all'estero potrebbero essere il motore dell'aumento di produttività, ma ciò purtroppo non avviene. Un paradosso nel paradosso. Se l'aumento della speranza di vita diventa un problema, anziché una misura del successo del paese, la conseguenza è una diminuzione della qualità della vita, misurata dal numero di anni vissuti in buona salute. È quindi necessario ancorare le misure della speranza di vita, oggi utilizzate per stabilire il tetto per l'età pensionabile, alla qualità della vita e in particolare alla vita in buona salute. Occorre introdurre sul piano legislativo e forse costituzionale il principio della non discriminazione legata all'età, che è un principio importante soprattutto per tutti i lavoratori oltre i 50 anni, che spesso hanno il desiderio e la capacità di lavorare, ma spesso sono oggetto di discriminazione per ragioni economiche. È necessario eliminare due diffusi falsi luoghi comuni. In primo luogo, non esiste di regola un conflitto generazionale, almeno non più di quanto sia indesiderabile un conflitto permanente fra genitori e figli di una famiglia, perché la gran parte dei genitori aiuta i figli e i figli si assumono responsabilità che dovrebbero appartenere allo Stato quando i genitori diventano anziani. In secondo luogo, gli elettori anziani non dominano le scelte politiche come molte teorie suggeriscono, perché non si spiegherebbero altrimenti i profondi tagli in corso al loro tenore di vita, sia con una progressiva riduzione del potere di acquisto delle pensioni che con il taglio della spesa sanitaria pubblica. Il deterioramento prospettico delle condizioni economiche dei pensionati si appesantisce ulteriormente quando si considerano le spese per l'assistenza sanitaria e la cura dei non autosufficienti. La questione centrale è che, anche a norma di legge, la responsabilità delle cure ai genitori non autosufficienti ricade anche sui figli, i quali si troveranno, in misura crescente, nella situazione di dover formulare scelte impossibili fra il destinare risorse alle cure dei genitori piuttosto che ai nipoti. Il welfare di una società che invecchia deve essere affrontato quindi con grande senso di responsabilità, avendo come obiettivo primario quello di rovesciare la caduta della natalità, con un'attenzione primaria per le giovani coppie coniugate e con il rispetto della dignità umana dei loro genitori non autosufficienti. È una sfida difficile, che dovrebbe avere al centro la famiglia e ancor più la catena generazionale di nonni, genitori e nipoti, ma che richiede un orizzonte politico lungo, che non è purtroppo la norma nelle democrazie contemporanee. La conseguenza è che il peggioramento della speranza di vita, in anni in buona salute, diventa oggi un rischio concreto, soprattutto in Italia. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dell'articolo di Luigi Campiglio «Se l'allungamento della vita diventa un problema», dal numero di maggio del mensile Formiche. 15.000 anni fa, molto prima della Torre di Babele, esisteva una lingua madre comune a tutta l'Europa. Lo rivela uno studio realizzato dall'Università di Reading, dal quale emerge anche che le parole maggiormente usate sono quelle che tendono a scomparire più facilmente. Era un idioma arcaico, sconosciuto, nato probabilmente dalle parti dell'Anatolia o del Caucaso. Ma nonostante l'erosione cui l'uso quotidiano sottopone le regole del nostro comunicare, gli archeologi delle parole sono convinti che di quella lingua madre, comune a tutti i popoli dell'Europa e dell'Asia, esistano ancora oggi delle tracce. Ricostruendo l'albero genealogico dei termini più radicati e diffusi in tutte le lingue moderne, gli esperti dell'Università inglese di Reading sono riusciti a dare una data di nascita al primo idioma parlato probabilmente dall'uomo. La loro ipotesi, 15.000 anni fa, è molto più antica sia della tradizione biblica, 4.000 avanti Cristo, che della barriera con la quale gli studi di paleolinguistica si erano sempre scontrati, 8-9.000 anni fa. Da un punto situato nel cuore dell'Eurasia, la lingua madre si sarebbe diffusa seguendo poi le rotte dell'agricoltura e le migrazioni dei nomadi lungo le steppe. L'autore dello studio è Mark Pagel, una vita dedicata all'archeologia della comunicazione, da sempre convinto che le parole siano come i geni e che le lingue siano assimilabili alle specie viventi. Facendosi affiancare da esperti di biologia, ha cercato di ricostruire l'antenato comune delle lingue dell'uomo. È partito da alcuni termini molto conservati in tutti gli idiomi di Asia ed Europa e ha percorso la loro storia a ritroso. Osservando i rami di un albero, ha cercato di ricostruirne la radice ed è approdato appunto all'epoca di 15.000 anni fa, in cui l'ultima era glaciale si stava dissolvendo e l'Homo sapiens si preparava gradualmente alla rivoluzione dell'agricoltura e delle città. La tecnica dello studioso inglese è stata criticata in passato e forse lo sarà anche oggi. Ma nella loro ricerca, Pagel e i suoi colleghi spiegano con chiarezza di aver calcolato che mediamente ogni parola ha il 50% di probabilità di scomparire da una lingua ogni 2-4.000 anni. I cambiamenti avvengono più rapidamente se un significato può essere espresso da molti sinonimi. Esistono però termini talmente cardinali per un idioma da restare intatti anche oltre 10.000 anni. Pagel ne ha trovati una ventina. Sono espressioni che ancora oggi usiamo con una frequenza superiore a una ogni 1.000 parole pronunciate. Questo, quello, cosa, no, chi, io, tu, dare, uomo, madre. I ricercatori hanno usato queste espressioni come sonde con cui esplorare il terreno profondo delle lingue, registrando le ricorrenze in luoghi ed epoche assai diverse, poi tracciando l'albero genealogico e stimando il punto d'origine, la radice del tronco del linguaggio umano. Lo stesso metodo viene usato dai genetisti per disegnare la storia delle specie viventi attraverso le mutazioni del loro DNA. Le parole si trasmettono dai genitori ai figli e mutano a seconda delle esigenze di una società, secondo regole prevedibili. E come gli organismi, le circa 7.000 lingue del mondo sono soggette a estinzione. Si stima che tra il 50 e il 90% di esse sarà scomparso alla fine del secolo. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Elena Dusi «Quando tutti gli uomini usavano le stesse parole», da Repubblica del 7 maggio.